5 delle tante domande che ci piacerebbe prima o poi porre a sindaco e presidente della regione, ma iniziamo da queste 5. Le prime due hanno ovviamente a che fare con il tema della salute, ovvero ci chiediamo perché in tutti questi mesi sindaco e presidente del Consiglio della regione abbiano sempre rifiutato di fare quello che hanno chiesto a decine di associazioni, ovvero una valutazione di impatto sanitario sul passante. Sono passati ormai tanti mesi da quando il comune ha approvato il progetto, ci sarebbe stato tutto il tempo per avviare questo tipo di studio che oggi probabilmente starebbe già dandoci alcune prime risposte che ci permetterebbero di sapere nel concreto che cosa significa avere un'autostrada urbana che già oggi, indipendentemente dall'allargamento, attraversa la città e quindi potrebbe essere causa di problemi e di danni alla salute dei cittadini. Su questo non è stata data ancora mai nessuna risposta e non si capisce per quale ragione ci sia questo ostinato rifiuto nel non voler assolutamente prendere in considerazione una valutazione di impatto ambientale. Così come non c'è chiaro come mai, nonostante siano state prescritte già nel 2000, non siano mai state installate le centraline di monitoraggio degli inquinanti lungo il tracciato, e poco cambia se verranno installate negli anni prossimi all'avvio del progetto, perché crediamo che sia importante conoscere già oggi che cosa quel tracciato autostradale rilascia sulla città e nella qualità dell'aria della città, considerato anche che sono le stesse stime di Società Autostrade, il passante è già oggi responsabile di almeno il 40% delle emissioni sulla città. Dopodiché ci piacerebbe approfondire perché presidente della regione e sindaco non hanno mai preso in considerazione degli studi internazionali che parlano di domanda di traffico indotta, ovvero dicono che all'aumentare delle corsie aumenta anche il traffico e quindi non si risolve il problema delle code e dei rallentamenti. Su questo non ci sono solo teorie, ma ci sono anche casi internazionali. Uno di questi è quello di Houston negli Stati Uniti, dopo l'allargamento a 20 corsie dell'autostrada urbana i tempi medi di percorrenza sono aumentati del 30%, e questo ci fa prevedere che probabilmente i pendolari, le lavoratrici, i lavoratori che già oggi tutti i giorni si trovano in coda lungo quel pezzo di strada rischino, dopo anni di quel disagio legati ai cantieri, di ritrovarsi nelle stesse code e probabilmente di starci ancora più tempo, quando probabilmente costruire, invece investire su un servizio efficiente di trasporto pubblico e spostare una quota delle merci, della logistica su ferro, potrebbe da una parte permettere a molti di muoversi in maniera diversa, dall'altra permettere a coloro che non possono comunque spostarsi con un mezzo pubblico di trovare le strade meno interrate. E poi le ultime due domande hanno a che fare con l'ambizione che la nostra città si è data, ovvero di essere tra le 100 città europee che saranno carbon neutral entro il 2030, cosa che peraltro ci piace moltissimo, non vediamo l'ora di vivere in questa Bologna del 2030. Ecco, però ci chiediamo come la scelta di allargare un'autostrada che taglia in due la città possa essere coerente con questo tipo di ambizione, e come nel budget delle emissioni che il Comune si darà nei prossimi anni per monitorare l'avanzamento di questo obiettivo, l'avvicinamento di questo obiettivo, come le emissioni prodotte dal tratto autostradale e riversate direttamente sulla città potranno essere conteggiate. Sono domande semplici che in qualche maniera mettono a nudo i tanti difetti di un progetto che è comunque impresentabile e come dire irricevibile, perché è un progetto novecentesco che nel pieno della crisi climatica, di cui abbiamo avuto assaggio dei devastanti effetti in questi mesi, è una scelta irresponsabile, che investe ancora sul trasporto su gomma, che investe ancora sulla motorizzazione privata, quando noi abbiamo bisogno e necessità urgente di cambiare il nostro modo di muoverci, di garantire a tutte e tutti il diritto alla mobilità, ma di farlo in maniera sostenibile, in maniera ecologica e capendo quali sono anche i limiti a cui non possiamo andare oltre. Poniamo queste domande sapendo che finora non ci sono state risposte, nonostante la tanto declamata partecipazione, nonostante Bologna sia la città più progressista d'Italia, e segnalando anche il fatto che coloro che le risposte hanno provato a cercarle attraverso i ricorsi al TAR, perché preoccupati per la propria salute, per la salute dei cittadini di Bologna, ecco, a queste persone oggi Comune e Regione chiedono migliaia di euro in spese legali, e quindi, come dire, anche questo un po' dà il senso di cosa significa porre dubbi e porre domande su un'opera come quella di cui stiamo discutendo. Bologna for Climate Justice, oltre a queste 5 domande, fa parte, diciamo, della convergenza che si sta creando per la manifestazione del 22 ottobre. Sì, partecipiamo assieme a decine di altre realtà bolognese al percorso di costruzione della manifestazione del 22 ottobre, nata quest'estate da un confronto molto interessante con Fridays for Future, con la rete Sovranità Alimentare e con il collettivo di fabbrica GKN, che come sapete fino a un anno e qualche mese fa produceva segnarsi per automobili di lusso e che oggi, dopo che la fabbrica si è fermata a causa del licenziamento collettivo, vede le operaie e gli operai chiedere non solo di tornare al lavoro, ma anche di poter essere, come dire, polo italiano per la mobilità sostenibile, perché queste persone si sono poste il problema, poste la domanda del che fare di fronte non solo alla necessità di avere un salario, ma anche di fronte alla bisogno, all'urgenza di garantire un futuro alle proprie figlie e ai propri figli. Ecco, con questo spirito il 22 ottobre scenderemo in piazza con tante e tanti, portando tanti temi convergenti che parlano della nostra quotidianità, che parlano della nostra vita, che parlano della complessità anche di cosa significa vivere tempi in cui cresce la guerra, cresce la disuguaglianza, la crisi ecologica accelera, in tempi in cui però anche c'è bisogno di immaginare e costruire un'alternativa. Noi pensiamo che in questo senso, e non è un caso che si manifesti a Bologna, che si manifesti a partire anche dalla questione del passante di mezzo, perché pensiamo che il passante di mezzo sia in qualche maniera simbolo di tutto ciò, cioè sia capace di rappresentare da una parte la crisi ecologica, la crisi climatica e la testardaggine con cui chi l'ha provocata e troppo spesso anche chi governa vuole continuare comunque nei soliti investimenti e nel solito modello economico e sociale, ma dall'altra rappresenta anche quel sistema che poi ci costringe a portare le merci da un capo all'altro del mondo, ci costringe a lavorare di corsa in maniera precaria, ci toglie diritti, ci toglie spazio di vita, ci toglie quotidianità. E tutto questo si intreccia e trova nel passante un elemento simbolo che noi oggi vogliamo andare a contestare, perché pensiamo che quel progetto sia nocivo non solo alla città, perché è inquinante, perché è devastante, ma nocivo a tutto e tutti noi, perché ci spinge nei prossimi decenni verso un modello che non potrà che aggravare la crisi climatica.